accesi, spenti, stupidi e speciali. Due consonanti perse in tre vocali. Sono loro che ci aiutano a non sentirci soli, perciò sono importanti e li chiamiamo amori. Gli amori sotto un grande cielo o chiusi in una stanza, gli amori in cui hai perso la speranza. Gli amori con le spalle al muro o quando dici Dio ci pensa, gli amori dove non sei sicuro, a cui non dai importanza. Ma quanti amori, quali amori, con il coraggio e la paura di volersi bene. Amori fragili che vanno via, quelli in cui soffri solamente tu, e gli altri a dire cosa vuoi che sia. Quanti amori, troppi amori, amori ormai scoppiati che non sanno stare insieme, amori al limite della follia, quelli che trovi e che non lasci più, gli amori a pezzi da gettare via. Immagina due mondi solitari, sospesi tra le stelle in mezzo ai mari. A volte si avvicinano per non sentirsi soli, per questo sono grandi e li chiamiamo amori. Ma quanti amori, quali amori, con il coraggio e la paura di volersi bene. Amori fragili che vanno via, quelli in cui soffri solamente tu, e gli altri a dire cosa vuoi che sia. Quanti amori, troppi amori, amori appena nati con la voglia di restare insieme, della follia, quelli che trovi e che non lasci più, gli amori a pezzi da gettare via. Quanti amori, ma quali amori, amori al limite della pazzia, quelli che trovi e che non lasci più, gli amori a pezzi da gettare via. Gli amori sono quasi tutti uguali, la differenza adesso è